Componimento 119esimo del canzoniere di Francesco Petrarca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Una donna più bella assai che il sole e più lucente ed altrettanta etade, con famosa beltade, Acerbo ancor mi trasse alla sua schiera. Questa in penseri, in opre ed in parole, però che delle cose al mondo rade, questa per mille strade sempre inanzi mi fu leggiadra altera. Solo per lei tornai da quel chi era, poi chi soffersi gli occhi suoi da presso, per suo amor m'erio messo a faticosa impresa assai per tempo, tal che, si arrivo al disiato porto, spero per lei gran tempo viver quand'altri mi terrà per morto. Questa mia donna mi menò molt'anni, pien di vaghezza giovenile ardendo, sì come ora io comprendo, sol per aver di me più certa prova, mostrandomi pur l'ombra o l velo o panni, talor di sé mal viso nascondendo. Ed io lasso credendo vederne assai tutta l'età mia nova, passai contento e l rimembrar mi giova, poi ch'alquanto di lei veggior più inanzi. I dico che pur dianzi, qual io non l'avea vista infin allora, mi si scoverse, onde mi nacque un ghiaccio nel core ed evvi ancora e sarà sempre finch'i le sia in braccio. Ma non me l tolse la paura o il gelo che pur tanta baldanza al mio cor diedi, ch'i le mi strinsi a piedi per più dolcezza trar degli occhi suoi. Ed ella, che remosso avea già il velo, dinanzi a miei mi disse, amico, or vedi, com'io son bella, e chiedi quanto par si convenga agli anni tuoi. Madonna, dissi, già gran tempo in voi posi il mio amor, chi sento or sì infiammato, onda me in questo stato altro volere o disvoler m'è tolto. Con voce allor di sì mirabil tempre rispose e con un volto che temer e sperar mi farà sempre. Rado fu al mondo fra così gran turba ch'udendo ragionar del mio valore non si sentisse al core per breve tempo almen qualche favilla. Ma l'avversaria mia che il ben perturba tosto la spegne ond'ogni vertù more e regna altro signore, che prometti una vita più tranquilla, della tua mente amor che prima aprilla, mi dice cose veramente ond'io veggio che il gran desio pur d'onorato fin ti farà degno. E come già se de miei rari amici, donna vedrai per segno che farà gli occhi tuoi via più felici. I volea dir, questa è impossibil cosa, quand'ella or mira e leva gli occhi un poco in più riposto loco, donna ch'a pochi si mostrò già mai. Ratto inchinai la fronte vergognosa, sentendo novo dentro maggior foco, ed ella il prese in gioco, dicendo, i veggio ben dove tu stai, sì come il sol con suoi possenti rai fa subito sparire ogni altra stella, così par or men bella la vista mia cui maggior luce preme. Ma io però da miei non ti diparto, che questa e me d'un seme lei davanti e me poi produsse un parto. Ruppesi intanto di vergogna il nodo ch'a la mia lingua era distretto intorno su nel primiero scorno. Allor quand'io del suo accorger m'accorsi e incominciai, s'egli è ver quel chiodo, beato il padre e benedetto il giorno, ch'a di voi il mondo adorno e tutto l tempo ch'a vedervi io corsi. E se mai da la via dritta mi torsi, duolmene forte assai piú ch'i non mostro. Ma se de l'esser vostro fossi degno udir piú del desir ardo. Pensosa mi rispose, e cosí fiso tenne il suo dolce sguardo, ch'al cor mandò co le parole il viso. Sí come piacque al nostro eterno padre, ciascuna di noi due nacque immortale. Miseri, a voi che vale? M'è vera che da noi fosse il defetto. Amate, belle, giovani e leggiadre, fummo alcun tempo, ed or siam giunte a tale che costei batte l'ale per tornar all'antico suo ricetto. I per me sono un'ombra. Ed or t'ho detto quanto per te sì breve intender puossi, poi che i piè suoi fur mossi, dicendo non temer chi m'allontani. Di verde lauro una ghirlanda colse, la qual co le sue mani intorno intorno alle mie tempie avolse. Canzon, chi tua ragion chiamasse oscura, di non ho cura, perché tosto spero ch'altro messaggio il vero farai in più chiara voce manifesto. I venni sol per isvegliare altrui. Se chi m'impose questo non m'inganò quand'io partì da lui. Fine del componimento.